e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Cuore Denari. Oggi lo spunto per la puntata ci arriva dal web. Parleremo infatti di una catena che impazza su Facebook. È una catena di Sant'Antonio 2.0 che invita le mamme a postare le foto dei loro figli sul web. Vi è giunta voce? Siete state invitate per caso a postare alcune foto di vostro figlio o a segnalare altre mamme disposte a farlo, spinte dal desiderio assolutamente comprensibile di condividere con altre donne il piacere di essere mamma? Allora chiamateci, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Intanto sul nostro profilo Twitter abbiamo lanciato un sondaggio. Rispondete, come si dice, Deborah, restiamo connessi. Esatto, keep in touch. Allora, la notizia che anticipava Nicoletta, che appunto approfondiremo nella seconda parte con la pagina di Cuore, in realtà possiamo ben prenderla a spunto anche per la pagina di Denari, perché ci mette di fronte ad una questione delicatissima che purtroppo a molti di noi non sembra essere entrata bene in testa: i rischi che corre la nostra vita online e le responsabilità che ci dobbiamo assumere frequentando tanto assiduamente il web. Siamo abituati a vivere collegati in rete in ogni momento della vita, lo dobbiamo fare per lavoro, lo facciamo anche nel tempo libero, basta darci un'occhiata intorno quando facciamo un giro in metropolitana, sono tutti alle prese con i loro smartphone, non si guarda più nessuno in faccia, tutti con la testa chinata. Ma ci siamo mai chiesti che cosa comporti questa presenza tante ore al giorno nella nostra vita in rete? Conosciamo le conseguenze dell'essere tanto attivi sui social network, i rischi di incappare, ecco qua il tema di Denari, in una frode, in una truffa o peggio ancora in un furto di identità? Sapete che cos'è? Ne parleremo tra poco con il nostro primo ospite. Non sono dei rumori molesti che abbiamo trovato così e li abbiamo messi in onda tanto per crearvi disturbo questa mattina, ma in realtà sono proprio tutti i rumori provocati dall'utilizzo di tastiere, telefoni, insomma tutti insieme provocano anche questo disturbo all'udito, e magari ne parleremo col dottor Burdo qualche volta, Nicoletta. Adesso dobbiamo invitarlo, esatto. Chissà se ci sta ascoltando. Allora, batta siamo un colpo. Esatto, allora siamo sempre connessi praticamente in ogni luogo in cui ci troviamo, in ogni momento della nostra giornata. Da questo derivano certamente grandi opportunità e comodità, ma anche molti rischi. In particolare l'obiettivo da parte dei disonesti di turno è andare a colpirci anche dal punto di vista economico, oltre che da quello dei nostri dati sensibili e della nostra privacy, che lo sappiamo oggi sono un vero capitale di per sé, perché le informazioni sono a loro modo una ricchezza. Con chi ne parliamo di tutto questo? Questa mattina l'abbiamo presa un po' alla larga, ma adesso circoscriviamo l'argomento e naturalmente ci aspettiamo anche le vostre testimonianze. Buongiorno e grazie per essere con noi all'avvocato Fulvio Sarzana, blogger. Buongiorno. Oltre che avvocato, buongiorno. Buongiorno esperto. Sì, ci stiamo accavallando per questi saluti, per i convenevoli, esperto di diritti dei media anche per Nova 24 del Sole 24 Ore, per cui per chi la volesse ricercare, avvocato, lei anima anche le nostre attività, appunto i blog del Sole 24 Ore. Grazie a voi dell'invito. È schedato praticamente, esatto. Avvocato. La sua privacy ormai praticamente è andata stamattina. Bene. Allora, come avete sentito, la ribadisco, la notizia dalla quale siamo partite, che approfondiremo anche molto bene con esperti nella seconda parte della trasmissione, parleremo di questa sfida lanciata su Facebook da queste donne che hanno preso a riempire le loro bacheche con foto di bambini, quasi sempre minori, se non addirittura neonati, e quindi una sfida che si è propagata in modo virale, quasi, la chiamava Nicoletta, una catena di Sant'Antonio che è diventata un vero e proprio caso mediatico, tanto che su questo fenomeno ha puntato un riflettore anche la polizia postale. Allora io intanto vi chiedo, 800 24 00 24, il numero verde a cui potete collegarvi naturalmente per interagire con noi. Avete mai avuto brutte esperienze in rete relativamente ai vostri dati anagrafici o più in generale a vostre informazioni personali? Qualcuno li ha usati a vostra insaputa? C'è qualche Nicoletta Carbone in giro, Nico, che magari è bionda, porta gli occhiali gialli a differenza dei verdi tuoi stamattina, chissà con quali conseguenze, che danno vi ha arrecato? Avete preso la decisione di non condividere in rete alcune vostre informazioni proprio per tentare di proteggervi? Quali precauzioni avete preso? Come proteggete la vostra identità online? Allora, avvocato Sarzana, io ho convocato gli ascoltatori, adesso vado a lei. Su questa notizia delle mamme e le foto dei bambini ci concentreremo in modo più specifico nella seconda parte, anche con la polizia postale. Possiamo. Perché sappiamo che quando si parla di immagini dei minori si apre un capitolo molto molto delicato, stradelicato direi. Invece con lei, avvocato Sarzana, vogliamo concentrarci in modo più specifico su un altro aspetto che riguarda tutti noi e la nostra vita in rete, quello appunto del furto di identità, che ha tante declinazioni. Peraltro abbiamo trovato anche, quindi anche l'Associazione dei Consumatori vigilano su questo argomento, abbiamo trovato una guida molto utile di Adiconsum che definisce il furto di identità un reato davvero subdolo, perché non lo si conosce ancora bene, al di là di quella che può essere la definizione appunto di questo furto. Voi pensate che fra il 2014 e il 2015 ci sono stati 25.000 casi in Italia di furto di identità che hanno provocato danni per 200 milioni di euro. Avvocato, ma lo vogliamo definire per bene in che cosa consiste e poi come si può manifestare? Dunque, innanzitutto dobbiamo dire che quando noi andiamo in rete molto spesso direttamente mettiamo sulla stessa rete tante informazioni che poi possono essere utilizzate contro di noi. In realtà quando Zuckerberg di Facebook diceva la privacy in rete non esiste, aveva un fondo di verità. Siamo noi stessi che senza saperlo riempiamo la rete di informazioni che poi possono essere usate contro di noi. Tutti noi pensiamo qualche volta di essere immortali davanti alla tastiera e non ci rendiamo conto che una volta inserite immagini, informazioni in rete, queste sono praticamente destinate a rimanere per sempre sul web. Quindi noi quando ci affacciamo al web è come se mettessimo a disposizione di tutti per sempre le informazioni che ci riguardano. Naturalmente queste informazioni possono essere prese bene o male, ci sono purtroppo dei malintenzionati che utilizzano queste informazioni per nuocere a noi, ma molto più spesso per realizzare le cosiddette frodi online. Voi avete citato una ricerca, è uscita proprio in questi giorni una ricerca di un istituto importante di rilevazione che ha analizzato diverse aziende e ha chiesto a tanti top manager di 195 aziende di Europa, Medio Oriente e Africa, questa richiesta era: voi siete preoccupati dei furti di identità? E tutti questi top manager hanno detto nel 78% le frodi online sono il pericolo che ci riguarda più da vicino, e il 79% ha detto questa minaccia è destinata a crescere nei prossimi 5 anni. Questo significa che ogni giorno sulla rete vengono fatte dei furti di identità. Ma perché vengono fatti questi furti di identità? Per i motivi più svariati, ovviamente. Addirittura anche, per esempio, per accendere dei mutui a nomi fittizi. Si prendono ad esempio nomi di persone che sono decedute, oppure persone minori anche in questo caso. Queste informazioni vengono utilizzate per aprire dei mutui che poi ovviamente non verranno mai onorati, oppure per richiedere dei prestiti. Le banche a volte controllano, altre volte, soprattutto quando ci sono delle omonimie, non riescono a controllare. Ecco qui che questi dati vengono utilizzati contro la persona per ragioni di carattere economico. Ci sono già, avvocato Sarzana, proprio degli ascoltatori pronti a raccontarci esattamente dei casi che lei ha descritto. Il furto d'identità finalizzato poi ad ottenere prestiti e mutui. E qualcuno ci riesce anche. Adesso ce lo faremo raccontare. Peschiamo gli ascoltatori che si sono candidati per darci proprio esattamente questa testimonianza. Ma tornando alla domanda iniziale, prima di andare al traffico, ce l'abbiamo tra due minuti, avvocato Sarzana. Come si può fare questo furto d'identità? Allora, io, come tutte le persone che ci ascoltano, anche se c'è un ascoltatore che ci dice: care Nick e Deb, Ugo. Sì. Nico Debo di solito ti chiamano anche. Cos'è che dice Nicoletta? Sono ormai convinto, sono un alieno, non sono in nessun social. Ma non è detto che solamente stando su Twitter o su Facebook qualcuno possa rubarci i nostri dati anagrafici, avvocato Sarzana? Perché qua noi criminalizziamo sempre i social, ma basta andare su web e magari iscriversi ad una newsletter del nostro supermercato, veramente, del nostro centro commerciale. Penso che anche da lì si possa fare, perché lì poi magari ci chiedono di compilare un'anagrafica e da lì qualcuno magari potrà fugare i nostri riferimenti personali, o no? Assolutamente, non sono solamente i social. Le faccio un esempio pratico che è accaduto qualche tempo fa. È un famoso scrittore impegnato in cose di, diciamo, di camorra, per così dire, aveva una madre che esercitava una professione, una libera professione. Ora, tutti gli iscritti alle libere professioni hanno all'interno del proprio albo i dati personali. Quindi sul web questo scrittore, che naturalmente era protetto ovviamente dalle organizzazioni criminali, aveva sul web tutti i dati personali della madre, che in quanto libera professionista era iscritta a un albo. Questo albo, come tutti gli albi dei liberi professionisti, era presente sul web, quindi bastava andare a pescare i dati personali per capire chi era la madre di questo personaggio, che era a rischio di atti gravi da parte delle organizzazioni criminali. È il web in sé che consente di poter pescare dati personali, al di là della nostra attività o meno sui social. Senta, oltre che sui social network, oltre che per i social network o magari per la rete in termini generali, il rischio di furto d'identità, ce lo deve dire in 30 secondi, avvocato Sarsana, poi magari la faccio argomentare dopo perché abbiamo il traffico, vale anche per esempio per i sistemi di messaggistica gratuiti come WhatsApp? Assolutamente, tenga presente che WhatsApp può avere la chat, anzi i più gravi pericoli per i minori in questo momento non risiedono più nel mettere un'immagine su Facebook o su presentarsi su Ask e quant'altro. Il più grave rischio è quello di entrare in una chat di WhatsApp, non sapere chi c'è dall'altra parte, perché ovviamente non è che possiamo controllare tutti i numeri di telefono, ci sono dall'altra parte degli sconosciuti che sono riusciti a entrare in chat, magari abusando della fiducia di uno dei partecipanti, ecco lì che i dati vengono presi direttamente da lì. Tra l'altro, a proposito di mamme WhatsApp, ma questo non c'entra niente con l'argomento di oggi, so per esperienza indiretta che sai che ci sono queste mamme delle scuole che creano questi gruppi allucinati. È molto impegnativo. Guarda, Carmelo Lauricella, che naturalmente non è una mamma, tra i capelli, ma un papà, sa quanto sanno essere attive le mamme. Infatti, e quindi il confronto. Io conosco appunto tutta la questione dei compiti della domenica sera, fanno tutte il check-up per capire se i bambini sono pronti per il lunedì, se hanno fatto tutto quello che dovevano fare nel weekend, e quindi veramente ci sono. Pensa come siamo vissute bene noi, anche le nostre mamme. E anche adesso ne siamo fuori da tutto questo, anche questo è un po' una piccola fortuna, un po' ghigniamo per questo. Traffico tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Caro papà, oggi c'è stata la consegna dell'abilitazione. Ora sono un copilota che guadagna $1,400 al mese più le indennità. E la cosa più incredibile è che la mia famiglia può viaggiare gratis. Quindi via la mamma. Ciao, Brenda. Salve, dottor Connors. Questi devono essere firmati. Grazie. Arrivi tardi, chiaro? Il mio nome è Allen, Barry Allen, servizi segreti degli Stati Uniti. Il tuo uomo ha appena tentato di svignarsela dalla finestra, è in stato di arresto di sotto. Non so di che cosa parli. Come? Credevi che solo l'FBI desse la caccia a questo tipo? Non scherziamo. Un pilota, un medico, addirittura un agente dei servizi segreti, sono tante le identità che assume Leonardo DiCaprio nel film Prova a prendermi, che racconta la storia vera di Franca Bagnale, un ex truffatore poi diventato consulente informatico. Una storia incredibile che è diventata celebre anche grazie a questo film di Steven Spielberg con DiCaprio e Tom Hanks. Avvocato Sarsana, anche lei per caso ha un passato oscuro, poi si è redento diventando avvocato esperto di crimini informatici? Ovviamente non ve lo direi mai, naturalmente, ma tanto lo potreste trovare sul web, perché il web è in realtà immortale. Si parla a volte di diritto all'oblio, come diritto a veder cancellate le nostre informazioni. È vero. Ma realizzarlo è una delle cose più difficili, perché la rete è come un gioco di specchi. Una volta che tu hai inserito un'informazione sulla rete, questa informazione è destinata a circolare fuori dal tuo controllo. Quindi è vanità pensare che una volta che noi mettiamo delle informazioni, poi queste informazioni possano essere in qualche modo eliminate. Qualche tempo fa c'è stato un caso che ha dimostrato più o meno quanto le informazioni poi siano destinate a essere immortali. Riguardava il presidente dell'associazione privacy francese, cioè del garante privacy francese, il quale prima di diventare garante privacy aveva avuto una vita, per così dire, molto brillante, andava a feste e quant'altro. Improvvisamente sul web sono apparse delle foto del suo periodo universitario in cui lui praticamente senza vestiti stava a queste feste, si divertiva e quant'altro. Ha provato a farle levare, ma in realtà non c'è riuscito, perché a un certo punto... Quindi il diritto all'oblio non funziona, tutto non sommato funziona. Non esiste un canale con il quale possiamo fare questa richiesta e cancellare in qualche maniera il nostro passato, soprattutto quando questo per la nostra reputazione attuale è problematico. Ci si può rivolgere anche al Garante Privacy e alla magistratura, però ripeto... Non si cancella mai quasi completamente tutto. Completamente tutto, no. Questo non è una... Allora, Avvocato Sarzana, noi oggi stiamo parlando di furti d'identità, come scoprirli, come proteggersi, come riappropriarci della nostra identità quando scopriamo che ci hanno frodato in questo senso, e soprattutto come ripristiniamo la nostra situazione se ne è conseguito un danno economico. 800 24 00 24, sono pronte tre testimonianze che, Avvocato Sarzana, voglio girarle immediatamente. Il primo è quello di Michele, la prima testimonianza è quello di Michela da Genova, che salutiamo. Michela, buongiorno. Buongiorno. È successo l'anno scorso, mio marito a un certo punto riceve una telefonata da un avvocato di Latina che gli chiede perché non paga il finanziamento che aveva fatto ad agosto dell'anno prima per acquistare una Fiat 500L. Perché mio marito dice: io non ho mai comprato nessuna Fiat, nessuna 500, e non ho fatto nessun finanziamento. E da lì abbiamo scoperto che ignoti avevano falsificato la patente di mio marito, ma avevano tutti i dati di mio marito, il codice fiscale, persino l'importo della pensione che prendeva. Michela, lei siete riuscita a ricostruire il modo con cui questi malviventi riusciti ad impossessarsi dei vostri dati? Siamo andati così per tentativi. Noi proprio in quel periodo avevamo riattato un bilocale e abbiamo comprato dei mobili, c'era un finanziamento da fare a tasso zero e noi l'abbiamo fatto, certo. Da lì è partito tutto, secondo me. Quindi un finanziamento precedente fatto da voi, che abbiamo fatto noi, e secondo me i dati nostri sono partiti da quella finanziaria lì. Com'è finita adesso com'è finita la situazione, Michele? Perché poi tra l'altro mio marito è stato messo, non pagando le rate del finanziamento, è stato nella lista dei cattivi pagatori. Certo. Mio marito fa ancora, anche se siamo già anzianotti, lavora ancora e fa libera professione, non poteva, se voleva, fare un finanziamento lui. Certo, non perché risultava già profilato appunto da CRIF e dalle banche dati. È una cosa che purtroppo accade spesso. A me è capitato ad esempio un soggetto che aveva lo stesso identico nome ed era nato lo stesso anno di un boss della Sacra Corona Unita. Vabbè, quello proprio sfortunato pure di suo, tra l'altro, quindi... Non ha potuto più vivere per anni, perché il fatto che le sue informazioni fossero identiche a quelle di un altro soggetto le ha impedito praticamente di poter fare qualcosa. Ma qua nessuno gli ha rubato niente, purtroppo era un caso di omonimia stringente, che naturalmente di cui pagava le conseguenze. Nei casi come quello di Michela da Genova, lei, avvocato, generalmente come suggerisce di muoversi alle persone? Perché lui ne ha subito un danno, con chi se la può prendere questa persona? Beh, innanzitutto la prima cosa da fare è scrivere immediatamente al CRIF, a queste banche dati, le quali hanno un centro di controllo proprio su queste le centrali rischi, ecco, poi si chiamano, le chiamiamo le liste dei cattivi pagatori, per così identificarle meglio, ma sono delle vere e proprie. C'è la possibilità anche sul web di poter inviare un'istanza diretta a queste banche dati, di solito loro rispondono nel giro di una settimana, due settimane, quindi questo è l'elemento più importante, perché purtroppo entrati in questi meccanismi infernali è molto molto difficile uscirne, quindi la prima cosa è agire subito verso il mondo bancario per essere immediatamente eliminati dalle banche dati di quel tipo. Poi ovviamente bisogna rintracciare dove è accaduto il danno e ovviamente cominciare a fare una serie di azioni. Io consiglio ovviamente immediatamente di rivolgersi alla polizia postale e di fare immediatamente un esposto, una denuncia, dichiarando, quindi la polizia postale conosce benissimo, noi abbiamo oggettivamente una delle migliori polizie postali del mondo, questo è riconosciuto in tutto il mondo, sono molto gentili, anche molto, poi lo vedrete anche nella seconda parte della trasmissione, comunque sanno e conoscono questi fatti, quindi riceveranno i cittadini sicuramente un'assistenza notevole da parte di questi organi. Sentiamo se questa è la trafila che ha seguito Marco da Monza per risolvere l'inghippo che è capitato a lui. Marco, benvenuto all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho avuto un, diciamo, non un furto di identità, mi sono entrati nell'account di Trenitalia, si sono comprati biglietti da Mestre a Villa San Giovanni, quindi se ne andavano in vacanza perché era proprio attorno al... Certo, visto che l'hanno fatta, Marco, la facevano per bene, no? Godendosi infatti, pienamente, cioè, ecco, il misfatto. Allora, a me è arrivata l'email di Trenitalia che erano stati acquistati questi biglietti, andata e ritorno, non solo andata. In prima, naturalmente. Non lo so, però non hanno utilizzato i miei soldi perché... nell'account non ho la carta di credito. E infatti era la domanda che poi volevo farle. Esatto, come sono non riuscito. Hanno usato i miei soldi. Mi sono fiondato dai carabinieri, ho fatto la denuncia, l'intestazione esatta è sostituzione di persone e frode informatica. I carabinieri hanno mandato avanti la loro cosa, ho dovuto fare la raccomandata a Trenitalia con la denuncia, le copie, Trenitalia ha stornato i biglietti, ma al brigadiere che ha preso la denuncia ha detto qui c'è un nome e un cognome, c'è un numero di biglietto, quando si presenteranno con questo numero di biglietto per entrare li rimandiamo indietro, li prendiamo per le orecchie e vediamo che cosa succede. Grazie Marco. Allora in questo caso, come dire, un danno economico non c'è stato, per fortuna avvocato Starzana, e però questi qua sono riusciti ad entrare. Peraltro per prenotare un biglietto sul sito di Trenitalia, adesso lo dico perché io qualche volta lo faccio, non è che sia poi così semplice, perché bisogna mettere lo username, quindi bisogna ricordarsi anche certi nostri codici, avvocato, che voglio dire, io me li devo scrivere tutti quanti perché sennò non mi ricordo, per cui questi erano veramente bravi, sono stati bravi. Guardi, il problema purtroppo lì è la sicurezza dei sistemi informatici o comunque la sicurezza personale che noi mettiamo nelle cose che facciamo. Purtroppo quando ci chiedono di mettere una password che ha numeri e lettere inframmezzati anche eventualmente da segni di interpunzione, quali possono essere punti, interrogativi e quant'altro, non lo fanno perché ci vogliono rendere la vita complicata, lo fanno perché sanno che il password troppo semplici possono essere in qualche modo riprodotte. Noi oramai con le password facciamo tutto, entriamo nell'anagrafe, entriamo nel sistema di prenotazione. Dove entriamo ce lo continua a raccontare dopo il giornale radio, avvocato Starzana, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Cuore e denari. Attenti al lupo, attenti al lupo. Un lupo che ha delle sembianze diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati. Non è peloso, diciamo. Non è peloso, non c'ha i denti lunghi. Esatto, non si veste da nonnina delicata, non prepara nessun dolce, anzi no, li mangiava i dolci che portava Cappuccetto Rosso. Allora, il lupo di cui parliamo oggi è il furto di identità, il lupo che è naturalmente il malfattore che riesce a portare a casa questa operazione, naturalmente a nostro rischio e pericolo. Vi è mai capitato che qualcuno si appropriasse del vostro nome, cognome, data di nascita e tanti altri dati, codice fiscale, fino ad arrivare naturalmente anche ai parametri della carta di credito, e si spacciasse per voi? Cosa è successo? Quali conseguenze ha avuto questo fatto nella nostra vita? In che tempi siete riusciti a scoprirlo e a rimediare, se ce l'avete fatta? Raccontatecelo ancora all'800 24 00 24. Naturalmente, come abbiamo detto anche all'inizio, siamo partiti da un fatto di cronaca sul quale adesso torneremo con altri esperti, con Nicoletta, ma poi abbiamo allargato il giro proprio anche al tema del furto d'identità, perché il pericolo è sempre dietro l'angolo, soprattutto alla luce del fatto che frequentiamo molto assiduamente il web, compiliamo un sacco di cose. Io per prima, dico appunto, lo faccio perché mi piace iscrivermi a newsletter di vario tipo, dalla profumeria che mi manda le offerte a naturalmente magari a quelle di carattere finanziario che mi interessano di più. E però avvocato Starzana, che stamattina è con noi, tra l'altro anche un esperto delle Sole 24 Ore per questi argomenti, esperto di diritti dei media, blogger e tanto altro ancora, E insomma, qua qualche volta siamo anche un pochino leggeri, no? E allora adesso lei ci deve dare le regole principali per difenderci dal furto di identità. Quali sono le cose che non dobbiamo mai fare e quelle che invece dobbiamo stare un po' attenti a fare? Avvocato. Allora, prima di tutto non dobbiamo postare sulla rete informazioni che possono essere poi utilizzate contro di noi. Ad esempio, ci ferma la polizia a un blocco stradale e noi mettiamo la fotografia del nostro documento per dire mi hanno chiesto questo documento. A volte i ragazzi lo fanno, per esempio, per dimostrare magari che poi sono usciti indenni da una cosa di questo tipo. Ecco, se noi mettiamo l'immagine della nostra carta d'identità sul web, quello è il maggior modo di poter farci rubare l'identità, quindi non mettere assolutamente informazioni. Ad esempio, quando mettiamo delle fotografie sul web dobbiamo disattivare i cosiddetti tag, cioè dobbiamo evitare che le informazioni contenute all'interno della fotografia possano essere utilizzate contro di noi. Per esempio, se io metto una foto e all'interno della foto c'è nella cosiddetta filigrana digitale questa foto è stata scattata a via, non so, Mario Rossi al numero tal dei tali, evidentemente le persone possono sapere che noi ci chiamiamo in quel modo, che abitiamo in quel luogo e quindi possono utilizzare quelle informazioni ad esempio per poter fare delle frodi. Quindi attenzione a mettere immagini, informazioni che possono identificare con precisione quello che noi siamo, dove abitiamo, che lavoro facciamo, quindi informazioni che poi possono essere utilizzate contro di noi. Questa è la prima regola. Dopo ne daremo anche altri di suggerimenti pratici. Intanto riprendiamo anche il filo diretto con i nostri ascoltatori, riprendendo da Firenze, dove ci aspetta Andrea. Benvenuta Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Un'informazione più che altro. Sì. Noi abbiamo tutti, proprio per le password che diceva il colonnello, dice mettiamo le password molto strane, ognuno di noi magari fa un foglio, lo mette su un drive, sì, e lo inserisce sul web. Queste notizie sono accessibili, facilmente violabili o no? Grazie Andrea. La voce è già un po' preoccupato. Esatto, no, soprattutto poi avvocato Sarzana le deve tradurre per tutti la richiesta che ci ha fatto Andrea. Di che cosa è preoccupata esattamente? Lui dice io mi faccio un documento che naturalmente metto su web in cui faccio, come dire, una raccolta di tutte le password che utilizzo per l'accesso a tutti i siti internet che mi servono, dal conto corrente ad altro che non so. Ecco, quelle informazioni possono essere facilmente raggiungibili da un hacker particolarmente scaltro e bravo? Beh, mettere le password sul web equivale praticamente a puntarsi una pistola alla tempia. Ah, così? Non poteva che essere più chiaro, avvocato? Certo. E girare allora, con la borsa aperta, esatto, dai. Esatto, no, usiamo carta e penna, calamaio magari, no? Insomma. Facciamo un po' di esercizi di memoria. Diciamo, le informazioni più sensibili che riguardano la nostra vita non debbono venire in contatto con la rete. Questo è assolutamente la base della sicurezza. Quando si parla di sicurezza, per esempio, fisica, significa che tutte le password non devono mai essere presenti su un computer che poi è collegato alla rete. Quindi se noi vogliamo proteggere come una cassaforte, naturalmente la cassaforte non la mettiamo sulla pubblica via, la mettiamo in una stanza che naturalmente è chiusa a chiave e nessuno può entrarci. Se noi prendiamo la cassaforte e la mettiamo sulla strada pubblica, è naturale che qualcuno potrà aprirla questa cassaforte. Quindi assolutamente mai fare dei fogli di lavoro all'interno del quale mettere le password. Le password si mettono in luoghi chiusi, si utilizzano sistemi di crittografia, ad esempio, per proteggerli. Mai e poi mai utilizzare. Sì, guarda, io e Nicoletta ci stiamo guardando proprio, sai quanto crittografiamo? Un foglietto nel cassetto del comodino. Insomma, abbiamo abbastanza angosciato il nostro Andrea da Firenze, che adesso starà lì pensando a come può rimediare a togliere questo documento che si è costruito per comodità e invece lo abbiamo scoraggiato. Ugo ci scrive, ma il gestore telefonico per il contratto vuole la copia dei documenti, allora che fare? Avvocato. Allora, cioè, perché da quello che stiamo dicendo stamattina praticamente dovremmo ridurre a zero la nostra vita su internet e con internet. Non dobbiamo mettere delle informazioni reali. Quando la polizia postale dice attenzione a mettere le foto dei bambini, perché quelle foto di bambini sono poi utilizzate da malintenzionati, ha ragione. Noi dobbiamo cercare di essere il più possibile neutri sulla rete. Tutto ciò che è visibile deve essere ciò che noi vogliamo far vedere, e quello che noi vogliamo far vedere non deve essere qualcosa di, certo, personale. Questo è purtroppo la base di ogni regola. Se invece noi vogliamo mettere interamente la nostra vita sul web, può anche essere un'opzione, dobbiamo sapere che l'intera nostra vita è visibile a tutti. E quindi... No, sì, la interrompevo solamente per andare anche alla risposta del nostro ascoltatore preoccupato, perché ha trasferito le informazioni al gestore telefonico, perché servono per attivare evidentemente un contratto come si deve. Allora, i gestori telefonici hanno delle regole molto stringenti, rispondono anche penalmente di eventuali compromissioni della sicurezza. Quindi quando si dà a un operatore telefonico il documento, possiamo essere sicuri che il documento venga conservato in un certo modo. C'è stato nel passato qualche dubbio quando venivano fatti quei contratti da parte di promotori di tariffe telefoniche che giravano per l'Italia cercando di spuntare la migliore tariffa, e quindi proponendosi ai consumatori come intermediari nei confronti dei gestori telefonici. Lì c'è stato qualche problema, perché qualcuno ha abusato di questo ruolo di intermediario e ha utilizzato male le informazioni. Ma quando noi ci rivolgiamo a un gestore telefonico, sappiamo in realtà che i documenti vengono conservati, certo, con le migliori modalità, quindi quello non è un problema rispetto ai tipi di dati che noi possiamo dare. Allora, avvocato Sarzana, io la ringrazio moltissimo per tutti i suggerimenti molto chiari e pratici che lei mi ha dato. Qualcuno naturalmente non mancherà di preoccupare tanti ascoltatori che adesso faranno mente locale su tutta la leggerezza un po' con cui, me compresa, viaggiano su internet. Dobbiamo un po' ridimensionare e circoscrivere certamente i nostri comportamenti, ma insomma senza mortificare la nostra vita informatica, certamente con i nostri dati personali. Però dobbiamo fare molta più attenzione anche quando siamo presi da questo grande entusiasmo di condividere tutto ciò che facciamo su Facebook e sui social network in particolar modo. Chiedo ad Alberto da Roma gentilmente se ci scrive a cuoredenari@radio24.it, come tutti gli altri ascoltatori che non siamo riusciti a passare questa mattina. Visto grande e un intenso traffico appunto ai nostri centralini, segno che abbiamo stamattina colto nel vivo. Un ascoltatore naturalmente ci ricorda anche i suggerimenti che dà Enrico Pagliarini su 2024. Bene, direi è che Ulisse. E infatti, che è molto, ecco, attento a tutto il nostro palinsesto. Sì. Per bravo, cui siamo Ulisse. Contenti, grazie. Grazie avvocato Sarzana, la richiameremo presto. Grazie a voi. Grazie a molte. Sfida delle mamme. Sono stata nominata a postare 3 foto che mi rendano felice di essere mamma. Scelgo anche alcune donne che ritengo siano grandi madri. Se sei una madre che ho scelto, copia questo testo, inserisci le tue foto e scegli altre grandi madri. La rete invita, le mamme rispondono, così le bacheche si riempiono di foto di pupetti felici e sorridenti e la catena diventa in breve un vero e proprio caso mediatico. Per questo abbiamo deciso di parlarne insieme a voi e a tanti esperti. È un'occasione per prendere consapevolezza del nostro rapporto con la rete, riflettere sulla nostra dimensione social, come ci ha invitato a farlo il nostro primo ospite, che a volte devo dire è proprio una seconda identità, una seconda chance per alcuni, e anche a capire in che modo possiamo soddisfare il nostro sano desiderio di condivisione tutelando noi i nostri figli da eventuali rischi. Allora ci state? Chiamateci, fateci sapere la vostra opinione e condividete con noi anche la vostra esperienza. Quanto della vostra vita raccontate in rete? Avete aderito alla sfida delle mamme? Qualcuna delle vostre amiche lo ha fatto? Parliamone oggi, e se a postare immagini private non siete voi ma i vostri figli cresciuti, adolescenti, chiamateci, parliamo anche di loro. 800 24 00 24. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Deborah, intanto andiamo. Salutiamo Yolanda Restagno, che è qua in studio con noi. Ciao Yolanda. Salve. Buongiorno. Salve, buongiorno. Ciao a tutti. In rete da molti anni col sito filastrocche.it, che oggi ha fatto di internet e dei social network il suo lavoro, quindi è un profilo molto interessante anche per la donna di denari. Yolanda, è vero, ogni giorno si confronta con la grande community di mamme che la segue nelle sue iniziative iniziative nel suo network di mamme blogger che fanno parte di Fattore Mamme. Ogni giorno dialoga, informa, condivide informazioni, notizie, consigli con moltissime mamme che navigano in internet, interagiscono con i diversi social network. Yolanda, grazie per essere qua. Con te parleremo naturalmente della sfida delle mamme, ma anche di cosa significa essere una mamma social, opportunità, limiti, insomma, della mamma 2.0. Ne abbiamo rapidamente accennato, abbiamo detto molto faticoso, cioè essere una mamma social. È un lavoro, io ne ho fatto un lavoro, diciamo, quindi sì, molto faticoso. Senti, della sfida delle mamme ne hai letto, ne hai sentito parlare, allora, che cosa ti raccontano le mamme? Dacci un po' il polso della situazione, che tra l'altro hai gli occhiali verdi come sì, i miei, vedi? Sì, infatti voglio fare un selfie con te dopo, visto volentieri. Che parliamo di social. Dopo io controllo dove fate circolare questa immagine. Assolutamente sì. Allora, certamente ne ho sentito parlare perché ovviamente in questi giorni in rete è veramente un'invasione. Sì. Nei primi giorni c'erano proprio tutte le foto dei bambini che le mamme condividevano e nei giorni successivi invece la preoccupazione di queste mamme o di chi insomma ha partecipato al fatto di aver condiviso queste foto e dei rischi che correva. Ovviamente io ho le mie riflessioni, le ho fatte. Sinceramente io condivido le foto dei miei figli in rete, sempre d'accordo con loro, perché ormai loro hanno una certa età e quindi io non posso condividere le loro foto senza avere il loro permesso, questo è. E soprattutto quello che forse tante mamme non sanno, ma tanti utenti della rete non sanno, è che ogni social ha nelle impostazioni la possibilità di circoscrivere il pubblico a cui possono condividere le foto. E secondo me questa è la cosa fondamentale. Cioè, io voglio mettere la foto... Condividiamo ma protetti. Bravissimo, questo è il messaggio di Yolanda. Io condivido ma solo al pubblico che scelgo io. Solo ai miei amici, solo ai parenti, per dire. Si fanno le proprie liste e poi si condividono queste foto a un pubblico circoscritto. Il problema è il tema, il funzionamento di questa privacy impostata e se è efficace, no? Poi lo chiederemo al nostro esperto, immagino, Nicoletta della Volentieri. Polizia Postale. Intanto voglio salutare Alberto Pellai, lo conoscete, lo apprezzate, ogni volta che viene a trovarci ci scrivete, invitatelo spesso, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, autore di molti libri per adulti e adolescenti, tra cui Tutto troppo presto, edito da De Agostini, in cui affronti molti pericoli che i nostri figli incontrano quando la loro vita online sfiora anche il territorio della sessualità e quindi si addentrano in zone ad alto rischio. Parleremo di cyberbullismo e di pedopornografia. Per questo vi ho anticipato che se oltre a postare le foto dei vostri figli, sapete che i vostri figli adolescenti postano le loro o hanno una vita online, di chiamarci, perché ci faremo dare una mano da Alberto Pellai. Alberto, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. La sfida delle mamme, quali pensieri ha acceso nella testa di un papà? Ma che da una parte è naturale che come genitori ci piace far vedere i nostri gioielli perché si riempiono di orgoglio, no, al mondo, ma d'altro canto non dobbiamo mai dimenticare che noi poi ci troveremo nella posizione di genitori che quei gioielli li devono educare a fare un uso corretto della rete, della loro immagine online. Quindi se noi impariamo a darci delle regole, e questa sfida secondo me è un po' sregolata, ecco, le stesse regole che abbiamo usato noi, come diceva Yolanda, darci dei criteri su con chi possiamo socializzare e con chi non possiamo farlo, ecco, noi potremo poi sostenere quelle regole anche nella relazione educativa con i figli, perché gliele abbiamo un po' fatte vedere in azione da quando sono nati. Se invece noi perdiamo ogni contesto di riferimento, certo, facciamo un po' tutto quello che vogliamo, poi sarà difficile sostenere un ruolo educativo con i figli. Perché i bambini ci guardano. 800 24 00 24 se volete intervenire raccontandoci la vostra esperienza ma anche i vostri dubbi. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Valerio Cervellini, sostituto commissario della Polizia Postale. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno, spero che si senta bene. Non tanto direi, ma ci proviamo, semmai la ripeschiamo, sì, non in rete ma al telefono. Sì. Dottor Cervellini, la Polizia Postale ha messo in guardia le mamme che, spinte dal piacere di condividere i momenti belli della loro vita, si fanno coinvolgere in iniziative di questo genere. Ma il vostro intervento ha suscitato anche polemiche, tanto che voi avete dovuto specificare che il vostro posto non voleva certo suonare come un divieto, quanto piuttosto come un invito a riflettere sui pericoli, no? Che la pubblicazione di immagini immagini di minori sul web può comportare. Ricordo che tra i compiti della polizia postale c'è proprio la lotta alla pedopornografia. Dottor Cervellini. Sì, assolutamente. La polizia postale e telecomunicazioni svolge un'incisiva attività di sensibilizzazione e prevenzione, soprattutto poi quando parliamo di minori. La sensibilizzazione e la prevenzione è d'obbligo, perché quando un minore è stato abusato, è stato violentato, sicuramente è una sconfitta, e arrivare tardi non serve a nulla. Ecco perché noi sensibilizziamo e facciamo tutta una serie di attività, proprio perché vogliamo mettere in guardia gli adulti, i genitori, su quello che può succedere portando le immagini dei propri figli sulla rete internet. In più, per quanto riguarda la pubblicazione. Senta, dottor Cervellini, col piacere, proviamo a recuperare un po' la linea, la faremo richiamare dalla regia perché non la sentiamo molto bene, mentre vorremmo sapere da lei anche qual è il messaggio che la polizia postale vuole dare alle mamme. Non è di divieto, ma è di invito a riflettere. Come anticipava Yolanda, dicendo io posto le foto dei miei figli, ma adeguatamente protetti, e anche Alberto Pellai, che ci invitava anche a riflettere sul fatto che poi queste immagini dei nostri bambini nudarelli o con lo slippino o che soffiano la candelina rimangono nel web, a parte che potremmo anche chiederci se loro fra qualche anno saranno contenti di essere messi in, no, di essere visti magari anche dagli amici, magari anche da qualche bulletto che utilizza quella foto per schernirlo e per aizzare un po', no, i bulletti come lui, ma anche perché Alberto, come anticipato tra le righe, ma poi ce lo dirà più apertamente, questo materiale può essere utilizzato anche da persone che non hanno intenzioni particolarmente buone. Insomma, va ad arricchire, come ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, potrebbe andare ad arricchire il book dei pedofili. E così è, nel momento in cui noi postiamo qualcosa in un social e comunque nel momento in cui noi schiacciamo un click, abbiamo perso completamente il controllo dell'immagine che abbiamo, di cui abbiamo fatto l'upload, e da quel momento in poi è un'immagine che diventa di tutti e non ha più un limite né spaziale né temporale, per cui come adulti dovremmo davvero in qualche modo costruire un criterio di responsabilità. Secondo me è davvero importante, per esempio, pensare: ma se domani questa immagine finisse sulla prima pagina del giornale provinciale, come la vivremmo? E di nuovo, se fra 5 anni, perché sono proprio le cose che diciamo anche ai ragazzi, se fra 5 anni questa immagine uscisse da un cappello magico e venisse vista dai miei amici che avrò fra 5 anni e che ancora non conosco, ecco, che cosa penseranno di me o della mia famiglia o della mia mamma che ha postato questa foto? È importante farsi queste domande, ma è tutto talmente veloce nella rete che spesso non le pensiamo. Tra l'altro, senza adeguate impostazioni di privacy, le immagini dei minori postate proprio sui social diventano di pubblico dominio e possono venire manipolate raggiungendo un valore di scambio molto elevato e potrebbero finire in quella che viene chiamata darknet. Sì, esattamente, sì. È una rete, no? Si fa riferimento a quell'insieme di reti private, correggimi se sbaglio, Yolanda, che usano protocolli di comunicazione non standard, che hanno contenuti non pubblici, non indicizzati dai motori di ricerca tradizionale, su cui si naviga in forma anonima, quindi i dati personali, foto comprese, quindi riescono a circolare in questa seconda, no, un po' sottotraccia, e ad arricchire il mercato. Come mamma che naviga in rete e fate anche una sorta di educazione, cioè mettete le mamme in guardia da questi rischi, o insegnate loro un buon utilizzo della rete? Ma noi, cioè, ovviamente come Fattore Mamma e anche su Filastrocca ogni tanto nelle chat o nei forum che abbiamo, questi argomenti vengono toccati, e quello che diciamo noi è proprio sempre questo, di stare attenti, uno, al tipo di foto che si posta, perché ovviamente una foto al mare o mentre il bambino fa il bagnetto non è la stessa cosa che una foto invece magari dove il bambino è tranquillo che legge un libro. Cioè bisogna anche riflettere proprio anche sul tipo di foto che si condivide. E poi, come dicevo prima, proprio capire a chi la stiamo condividendo e con chi. Cioè nel momento. Detto quello, è il punto fondamentale. Il punto è fondamentale. Noi vi invitiamo a intervenire all'800 24 00 24. Facciamo un rapido sommario dei temi di cui parleremo. Naturalmente parliamo di questo tormentone, chiamiamolo così, che ha acceso, no, molte polemiche dall'intervento della polizia postale, poi è stato ripreso dai vari quotidiani, quindi ne parliamo anche con un taglio di servizio tipico di Cuore Denari insieme a Yolanda Restagna ed Alberto Pellai, ma naturalmente questo, il tema di oggi ci dà lo spunto anche per parlare di adolescenti in rete, no? Noi siamo soliti, con leggerezza forse postiamo le foto dei nostri bambini quando siamo piccoli in rete, ma poi non vogliamo che, diventati adolescenti, abbiamo timore che siano loro a postare o, no, ad avventurarsi nella rete. 800 24 00 24, le vostre esperienze, i vostri dubbi. Tutti qui, adesso vediamo, Deborah ci toglie i dubbi sull'andamento dei mercati. No, molte belle notizie da raccontarvi. Oh, dai. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati, parliamo delle sfide delle mamme, sembrerebbe il titolo di un reality, invece è un post virale che invita le mamme a postare le foto dei loro figli sul web e anche a coinvolgere altre mamme. Questo è un po' l'ultimo tormentone che ha conquistato il social network e ha conquistato anche Cuore e Denari. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai e con Yolanda Restagno. La polizia postale è intervenuta con il dottor Marco Valerio Cervellini, ma come possiamo dire, la qualità, no, del suono era pessima e quindi cerchiamo di ripristinare il collegamento. Nel frattempo diteci un po', siete soliti postare le foto dei vostri figli sui social? Avete mai pensato che cosa vi diranno fra qualche anno quando troveranno in rete le foto di quando erano bambini? Chiamate il nostro numero verde e raccontateci anche come proteggete i vostri figli dalle lusinghe della rete. Noi abbiamo anche realizzato un sondaggio, votate su Twitter per chi non ha la possibilità di farlo. Ecco qui il nostro sondaggio e quindi chiamateci e esprimete in diretta la vostra opinione. Hai mai postato la foto di tuo figlio sui social? Sì, mi piace condividere i momenti belli della mia vita. Sì, ma solo con i filtri. No, perché ho paura dell'uso che ne verrà fatto. No, la vita non è un reality. 800 24 00 24, al momento la rete è divisa, c'è chi lo fa indipendentemente da ogni protezione, dice secondo me è giusto, punto e finito, e chi dice non ci penso neanche. Intanto, Alberto, sul Fatto Quotidiano ieri Manuela Campitelli, che è giornalista e ideatrice tra l'altro di genitoriprecari.it, ha scritto che quello di questa catena fa riflettere è la viralità, ma è anche il titolo, che è la sfida tra mamme. Insomma, la rete, un po' come lo specchio parlante della regina di Biancaneve, sa essere molto convincente e sa toccare i tasti giusti, spingendo le mamme ad accettare la sfida della mamma più bella, più felice, più orgogliosa e più appagata del social. Io credo che ci ha visto giusto la collega giornalista, perché poi un pericolo su cui sia i nostri figli cadono, ma spesso anche noi, è proprio quello di usare la rete come una proiezione del nostro narcisismo e quindi farlo diventare una specie di campo di rappresentazione della parte migliore di noi stessi, quella che vogliamo essere vista, che venga vista, e allo stesso tempo una sorta di campo di competizione con tutte le altre, dove a quel punto anche questo genere di immagini, no? Già il concetto di sfida, come se ci fosse una competizione e noi dobbiamo eleggere la migliore di tutti. E un po' implicitamente è proprio quello che facciamo a volte con i nostri social, cioè cerchiamo di costruire un'idea e un'immagine di noi attraverso quello che postiamo che ci faccia un po' diventare i più belli del reame, quindi usiamo il web alla stregua dello specchio della storia di Biancaneve, per cui la regina Grimilde riusciva a trovare il senso di sé solo nell'unica risposta che lo specchio poteva darle. a Yolanda Restano. Yolanda, essere mamma, l'abbiamo anticipata, al tempo del web ha i suoi vantaggi, perché meno solitudine, molta condivisione, possibilità di confrontarsi su piccoli e grandi problemi, sui dubbi, sui temi della genitorialità. Ma essere una mamma 2.0 può diventare anche impegnativo, faticoso, per certi versi anche sfidante. C'è una continua competizione. Sì, c'è una continua competizione, in effetti, perché comunque, come diceva prima, per esempio questa sfida, no, ti spinge a, eccetera. Dipende sempre come la si fa, se certo. La si prende con ironia, ovviamente no, però in effetti ci sono casi in cui magari uno si sente proprio sfidato. Ma soprattutto ti metti anche in gioco e poi ogni tanto ti vengono dei dubbi. Perché a forza di vedere i commenti che possono essere, appunto, come abbiamo detto, pro contro in questo caso, ma anche su tanti altri argomenti che le mamme trattano in rete, ogni tanto ti senti un po' insicura, inadeguata, ma io avrò fatto bene. Ecco, bisogna capire dove si ferma, diciamo, la vita reale e dove comincia quella virtuale. Quindi beh, essere un po' più sicura. L'importante è che la lampadina si accenda. Esatto. Pensa, se non si accende, insomma, meglio così. Allora, noi accendiamo invece lo spazio dei nostri ascoltatori. Dove vogliamo andare? Direi che possiamo certamente andare. No, voglio sentire Bambina da Chieti. Pronto? Sì, signora, buongiorno. Sì, ma lei si chiama proprio Bambina di nome? Mi chiamo così, sì, è un bellissimo. Nome tipico della zona. Ah, eccoci qua. Sì. Benvenuta, Bambina. Grazie, e complimenti per le vostre trasmissioni, io sono una fedele ascoltatrice di Radio 24. Grazie. Allora, che succede lì da lei? No, niente, io volevo semplicemente dire questo, perché diciamo c'è questo bisogno di postare tutte le cose nostre, private, intime, cioè metterle in pubblico così, io questa cosa non riesco a capirla. Come dicevo anche alla redazione, cioè anch'io ho una figlia adolescente a 17 anni, però né io né lei siamo. Avete voglia di raccontare i fatti vostri? No, perlomeno ho cercato di metterli in rete. Infatti. Pronto? Sì. Sì. No, c'è la bella teoria di Nicoletta che quando osserva qualcuno che posta immediatamente una foto su un social network, magari no, quando tu vedi una persona impegnata a fare una fotografia perché si vuole sbrigare a postarla su un social network, cos'è che dici tu? No, io dico che ecco, goditela, perché io vedo, ci sono dei in varie occasioni bellissimo panorama, no? Tu dici ah, che bellezza, e tu vedi questi ragazzi, queste persone che invece di guardarsi il panorama sono lì che lo postano. Allora, prima assaporatelo, goditelo e poi è lì, lo condividi. Invece il piacere della condivisione viene prima del piacere, no, Alberto, di no, ricrearsi un po' uno spazio personale, a tu per tu con quella persona, quella situazione, quel panorama. Quello che avete appena raccontato, tra l'altro, è ben descritto in un video che è scaricabile da YouTube. Si chiama Una giornata senza smartphone, che è un esperimento un po' sociologico dove una ragazza ha deciso per 24 ore di vivere senza il cellulare e quindi fa un po' tutte le cose della vita di ogni giorno e osserva e si inserisce nel mondo che invece è costantemente connesso. E in questo minuto di video lei prende proprio consapevolezza del fatto che mentre lei sta vivendo la realtà, gli altri stanno soltanto vivendo la rappresentazione della realtà, perché continuano a registrarla, a documentarla, a fotografarla, ma in realtà non ci stanno dentro e lei in realtà si sente progressivamente sempre più sola e isolata, per cui credo che l'osservazione che ha appena fatto Nicoletta sia molto importante per tutti noi. Dobbiamo proprio un po' riappropriarci del nostro qui ed ora, sentire che la vita non è quella che documentiamo in uno schermo, ma è quella che viviamo attraverso i nostri cinque sensi. Andiamo da Simonetta, che ci chiama da Modena. Adesso, prima di postare, tanto che siete lì che postate, pensate a me, a Deborah, le due faccine lì. Esatto. E dice, oddio. Appena fotografate da Marco, allora, che metterà la nostra foto su Facebook, ovviamente. Ma insomma, per lì Simo, è buongiorno. Il sito professionale. Simonetta, buongiorno. Da Modena, detta Simo. Buongiorno. Mm. Senta, io lo faccio mestiere, scusi per l'eco, ma ho un telefono un po' strano. E, niente, per mestiere sono su internet, spesso e anche su Facebook. Io riguardo ai discorsi che avete fatto, sono d'accordissimo, perché riappropriarsi della propria realtà e di riuscire a frequentare le persone in un altro modo sarebbe la cosa più ottimale. Ma mi volevo riallacciare al discorso delle fotografie. Lavorando sul web spesso io devo scaricare delle fotografie. Io sconsiglierei a tutte le mamme che hanno dei bambini minori di non postare assolutamente delle foto dei propri figli sul web, perché ci sono dei sistemi di tracciamento che, di cui noi non siamo consapevoli, e comunque anche se noi impostiamo dei filtri su Facebook, a volte Facebook se ne frega e quindi poi ci ritroviamo delle foto dopo magari qualche settimana e qualche mese e che è condivisa a delle persone che noi non conosciamo assolutamente, e quindi io lo sconsiglierei in assoluto, e lo consiglierei soltanto alle persone adulte che sanno quello che fanno. Ecco, tutto qua. Grazie a Simonetta. Subito dopo le informazioni sul traffico parleremo insieme ad Alberto Pellai e anche naturalmente a Yolanda Restano dell'abitudine che invece hanno i nostri figli, di soprattutto i ragazzini, gli adolescenti, a vivere anche in rete e quindi a rimanere sempre connessi. Ci sono dei potenziali rischi che è bene che un adulto conosca, e soprattutto dobbiamo imparare come genitori, oltre che a dare un esempio, perché siamo anche noi sempre connessi, a raccontare i rischi nel modo corretto per fare una educazione ai nostri figli senza terrorismo, ma cercando di essere efficaci. Voi ce la fate? Come avete fatto? 800 24 00 24 tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Siamo tornati insieme, per chi ci avesse raggiunto solo ora. Stiamo parlando delle mamme 2.0. A volte la tecnologia aiuta, altre volte invece bisogna, come si dice, rizzare le orecchie. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai e in studio con noi Yolanda Restano. Abbiamo ripristinato il collegamento con la Polizia Postale, che aveva scritto un post, ha fatto una raccomandazione alle mamme relativa soprattutto a questo nuovo tormentone, alla sfida delle mamme. Marco Valerio Cervellini è ancora in linea con noi. Buongiorno e ribuongiorno, dottor Cervellini. Sì, buongiorno a voi tutti. Quindi la Polizia Postale non vieta, ma assolutamente, ma raccomanda di... Assolutamente sì, di fare attenzione a postare le foto dei nostri figli sui social network, per un motivo molto semplice: perché è pericoloso, perché è facile identificare i nomi dei nostri figli, associarli agli adulti di riferimento e quindi è possibile anche avvicinarli, da un lato. Dall'altro è importante non postarli, non pubblicarli, perché possono andare ad alimentare il mercato dei pedofili. Quindi noi raccomandiamo, quando parliamo di minori non si può parlare di sensibilizzazione e prevenzione, perché intervenire quando un minore è stato abusato, quando un minore è stato violentato, è una sconfitta per noi operatori della sicurezza che non siamo riusciti a tutelarli, ma soprattutto è una sconfitta anche per i genitori che spesso e volentieri utilizzano i social in modo assolutamente superficiale. Io non dico, noi facciamo delle raccomandazioni, non facciamo i pacchettoni. Poi ciascuno si assume la responsabilità delle proprie azioni, e quantomeno, se proprio vogliamo postarli, inseriamo tutta una serie di impostazioni di privacy, perché in questo modo limitiamo l'accesso, la visibilità a persone comunque malintenzionate. E in questo anche il nostro collega Deborah Enrico Pagliarini sicuramente vi potrà dare una mano. Fa per un gran rendervi su questi argomenti, assolutamente, sì, no? Eruditi in questo campo. Grazie dottor Cervellini, buona giornata e grazie per il vostro lavoro. Alberto, la tecnologia, lo sappiamo, no? Rende accessibili in un click contenuti ed esperienze che spesso i giovanissimi non sono in grado di capire e gestire. Tu ne parli nel libro Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet, insomma lo sappiamo, cellulari, tablet, PC, strumenti che permettono ai ragazzini di avere proprio un contatto diretto con il mondo e quindi anche anche di poter esplorare in totale autonomia, senza quindi genitori, territori per i quali potrebbero non essere dotati delle giuste competenze. Io proprio in questi soprattutto ultimi mesi ho veramente lavorato tanto con i genitori e con i figli, e il messaggio che cerco di condividere con tutti è che in particolare la sessualità si muove nell'area dell'emozione e dell'eccitazione, e spesso ci spinge a curiosare, esplorare, fare cose su cui la nostra parte più cognitiva, la parte del nostro cervello che costruisce i significati, che magari è ha pensieri più complessi, spesso non si attiva, e tra l'altro le tecnologie fanno fare tutto in tempi velocissimi. Proverei a dire ai genitori: quante volte vi è capitato magari di inviare una mail e dopo un secondo che avete schiacciato quel click vi siete detti: cosa ho fatto, non avrei mai dovuto spedirla. Ecco, se succede a noi con un documento magari di lavoro, oppure dove scriviamo delle cose private rivolte ad un amico, e noi che siamo adulti, insomma abbiamo molte competenze, a volte non riusciamo a bloccare la velocità di quei click che ci poi fa succedere delle cose su cui magari succedono un bel po' di pasticci. Provate a pensare quanto è difficile per i nostri figli che intorno all'area della sessualità si sentono molto curiosi, molto eccitati, spesso sono proprio soli, orfani nel web perché i genitori non fanno alcun genere di accompagnamento e monitoraggio, e a quel punto con tre click magari si trovano a fare cose molto autolesive, pericolose, quasi senza rendersene conto. Tu ad esempio parli, e vorrei condividerlo anche con Yolanda Restano naturalmente, di un fenomeno abbastanza recente, è il sexting, no? È una pratica che consiste nel condividere messaggi, immagini, video a contenuto sessuale più o meno esplicito attraverso i vari device tecnologici, e che piace molto agli adolescenti. Allora, io volevo coinvolgere Yolanda, Alberto, per capire come mamma, dato che hai dei figli dell'era, insomma, abbastanza direi che altro adolescenti, che nel pieno dell'adolescenza, ecco, e tu sei comunque una mamma che per lavoro usa internet e quindi la rete, quali consigli, quali tutele, quali raccomandazioni, dove vi scontrate? Perché poi allora, poi la vita non è poi così semplice, no, non basta dire a un figlio no. non farlo. No, anche perché, come diceva Alberto prima, loro seguono molto il nostro esempio, e io lavorando in rete, avendo sempre questi cellulari in mano, non posso poi pretendere che loro non li utilizzino, anche perché al giorno d'oggi è difficile che loro non abbiano un cellulare. Io mi ricordo mia figlia, la prima, quando andava in prima media, la prima cosa che mi disse: fa, mi raccomando, adesso ho bisogno di un cellulare perché non si possono affrontare le medie senza un cellulare. Questa frase è rimasta, è rimasta la frase in casa. Pensa che no? Noi volevamo la cinghia per i libri, per sentirci grandi, e non più la cartella, quella. Ma erano possono affrontare le medie senza cellulare. E quindi tu hai ceduto. E quindi sì, anche perché avendolo in mano io, posso mica dire tu no, per loro mi dicono perché tu sì e io no. Perché le medie le ho già fatte. Ecco, esatto, da un pezzo. Vabbè, comunque, come sempre il consiglio è quello che si diceva anche una volta, cioè ci vuole dialogo con questi ragazzi, bisogna confrontarsi. Se gli si dà questo nuovo mezzo in mano molto potente, bisogna parlare con loro. Ma tu li controlli, li spii? Vai a vedere che cosa hanno all'ultimo contatto, cosa hanno detto. Confessione in diretta. No, tanto loro sono lo a scuola, non sentono. Ma hanno il cellulare anche là, non lo possono usare, ma ce l'hanno. No, allora non guardo le loro chat di WhatsApp, ok? Quindi non vado a vedere cosa si dicono gli uni con gli altri, eccetera. Però, per esempio, sono loro amica su Facebook, sono loro amica sui social, loro sanno usare i filtri molto meglio di noi. Molto meglio delle mamme, della sfida delle mamme. Quindi io non sono certa di vedere tutto quello che loro pubblicano, okay? Cioè ti lasciano vedere quello che vogliono. Bravissima, loro sono molto più abili di noi, molto più abili di noi. Allora Alberto, noi siamo aspetta che mi infilo gli occhiali verdi. Abbiamo due minuti, no? Due minuti preziosi per... Noi non vogliamo essere bacchettoni, come ha detto il dottor Cervellini della Polizia di Stato. Quindi uno può assolutamente condividere le foto che vuole, i video, eccetera, ma sapendo che, ecco, diamo una lettura non tecnologica, perché qua è un campo, no, che sta presidiando assolutamente bene il nostro collega, ma facciamo un pensiero come genitori, come persone, dal punto di consapevolezza. Alberto. Ma credo che in questo momento stiamo proprio costruendoci una sorta di bon ton e di decalogo, di protezione, perché è andato tutto così veloce che noi ci siamo trovati a fare un sacco di cose nella rete senza realmente capire o elaborare quello che ci faceva bene e quello che ci faceva male. Fare la discussione come abbiamo fatto stamattina ci serve, perché significa che dobbiamo produrre anche un pensiero solido su quello che facciamo. In generale, ogni volta che postiamo, noi dovremmo farci la domanda: qualsiasi persona nell'ambito della mia vita che vede quello che sto postando, nel momento in cui la vede, pensa di me cose buone, costruisce intorno a me buoni aggettivi. Questa è una regola che vale per i figli, è una regola che vale anche per i genitori. Seconda domanda che potremmo farci è: fra 5 anni questa immagine postata oggi rimarrà ancora con un valore positivo, racconterà qualcosa di buono di me agli altri, oppure potrebbe avere un contesto e un significato completamente differente? Se questo è, togliamola e non facciamola. Se domani sul giornale locale, sugli autobus della nostra città, comparisse questa immagine, noi, questa cosa che ho appena fatto, ecco, io come mi sento con tutta la città che butta gli occhi su quella cosa lì? Quando io dico queste cose ai ragazzi... Alberto, dobbiamo lasciare la linea al GR, ma abbiamo memorizzato, torneremo.